sguardo verso l'alto. Mi basterebbe quello. Tu non mi hai mai pianto, mai per un secondo. Eppure io ho il bisogno d'ogni volta. Vi umiliato, cacciato, ricacciato. Ma non ancora stanco. Se un bacio è un omicidio, il tuo bacio è il mio suicidio. Dalla testa, perché con te non ho mai deciso. Vuoi darti, ti dai. Vuoi tenerti, ti tieni. La mente mi avveleni, perdutamente perso. E tu schiacciami, distruggimi e poi fottimi. Non ti chiedo niente in cambio, ma qualche volta scusami. E tu schiacciami, distruggimi e poi fottimi. Non ti chiedo niente in cambio, ma qualche volta usami. Com'è se fossi lattice, non darmi più uno sguardo. Com'è se fossi lattice, non ti chiedo altro. Com'è se fossi lattice, toglimi il respiro. Com'è se fossi lattice, tienimi dentro. L'ho dipinta con il pianto fino all'ultimo respiro. Sei una schifosa, lo ben porto davvero. Dammi tutte le tue favole, non fossi così liscia. Dio, non fossi così fragile. Non la tua bellezza che non me ne faccio nulla. Quando ho bisogno di tenere le mie labbra sul tuo polso. Mi hai lasciato qualcosa, vuoi per cosa quando vuoi. Mi hai tolto tutto, perdutamente perso. E tu schiacciami, distruggimi e poi fottimi. Non ti chiedo niente in cambio, ma qualche volta scusami. E tu schiacciami, distruggimi e poi fottimi. Non ti chiedo niente in cambio, ma qualche volta usami. Com'è se fossi lattice, non darmi più uno sguardo. Com'è se fossi lattice, non ti chiedo altro. Com'è se fossi lattice, toglimi il respiro. Com'è se fossi lattice, tienimi dentro. Tienimi dentro. Dove forte sulle mani, tra le dita, tra le dita, tra le dita. Ma visto che è di me, non sai come più che farci. Almeno dammi una scusa per odiarci.